partito, da dove è sbucato. Che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano, ma sei proprio tu. 14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirà, quelle sere